Voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Alla prima occasione lo sistemerò per sempre. Quel figlio di una vecchia... Non provarci, è più veloce di un serpente. Il tuo stupido amico ha ragione. Non ci provare. Now when you told me that my love was just aesthetic, and I fell into the beauty of another, and it was in the summer, the confusion was a blooming every little corner road. Don't you understand? Don't you understand? Don't you understand? Don't you understand? All our lonely gets, our lonely gets, our lonely gets, our lonely gets. And then you said to me that I was cold and stern. I said it like a man, I was no woman. I want you to intellectualize my emotion. They call me baby, baby, baby, baby in the wrong way. Such a lack of taste, such a lack of taste, such a lack of taste, such a lack of taste, such a lack of taste, lack of taste, such a lack of taste, lack of taste. Oh, ooh, oh. Pretty face again. I don't think I'll be your lifelong friend. I don't wanna carry any of your pain. And I'm gonna talk to you and I never explain. Cause you never get me right, never get me right, never get me right. Even if you try, never understand. You never get me right, you never listen tight. You never get me right. Eclectica. c'è lei, Oh Let's Go, ma direi che a parte questo non possono venire in mente i Ramones. Già avevo fatto questa citazione anche la prima volta che trasmisi Traffic, il brano degli Yellow Capra che ci siamo ascoltati però come secondo brano quest'oggi di Eclettica. Yellow Capra che incidono per la Peel Off YC, è il titolo dell'album in questione. Invece abbiamo aperto con la Svezia di Frida Hyvönen, che già ci eravamo ascoltati da Until Death Comes, il suo disco uscito per la Secretly Canadian, però con un altro brano. L'altra volta era stato I Drive My Friend, quest'oggi ad aprire Eclettica and You Never Got Me Right. Questo il titolo del pezzo che vi siete ascoltati qualche minuto fa. E si prosegue con la Svezia, con una band che ora di nome fa Amandine e incide per Fat Cat Records, ma però aveva inciso qualche demo fra il 2001 e il 2004 sotto altro nome, Wichita Lineman. Poi decisero di chiamarsi in questo modo esattamente qualche mese prima di firmare per la Fat Cat, per cui escono con un album che io ora ho fra le mie mani, dal quale ci ascoltiamo la traccia numero 4, intitolata Sparrow. There's a glimmer and a spark, to fire up the dark, shadow and its kind to part. Trouble is me, it's breathing down my neck. You're a spell. Expire, cause I've been on so long. Una strana e contagiosa malattia ha iniziato a colpire i bar e i locali pubblici verso la fine degli anni 70. Il suo nome è Sindrome del Bancone o Megalobancomania. Questa sindrome porta a cambiare ossessivamente il bancone del bar ogni 4-5 anni. E ogni volta il bancone diventa più grande, più scomodo ed esteticamente incomprensibile. Si possono così incontrare, in piccoli bar di paese, dei monoliti di alabastro nero del peso di 10 tonnellate, portati lì da non si sa quale astronave. Parimenti, dei bellissimi banconi di legno perfettamente funzionanti vengono sostituiti con banconi AS, a labirinto, pralinati con lapislazzoli, in materiali che vanno dalla bachelite arancione al vetro blindato. Gli stili passano dal rococò Maya al neo torronico bugnato, dal Liberty Linoleum al Barbie Godzilla, dal Cheope Chippendale al Post Benito, dal gotico zotico al Luigi X-Files, dalla Siro Bullonese al Tecno Etrusco, in una gamma di orrori mineralogici e geometrici senza limiti di spesa, di tonnellaggio e di vergogna. Questo era l'incipit di Bar Sport 2000 di Stefano Benni. Mia luce, io sono un illuso spettatore che accenna a rincorrerti e sento che già brucia veloce, come se quel raggio che traspare dalla tua magia vocale riscaldasse le mie idee. Dolce netta musa inattaccabile, non ti scomponi, invadi alla sistematicità. Mentre già combatto ogni respiro, dormi morbida, ti adoro, me ne sto seduto qua a contemplare le magie di ieri, a ricordare quando tu non c'eri. Perché se non ti conosco è come se già ricordo di te. E sei estasi pura, pura. Quanti mari devo attraversare per potermi ritrovare nella mia stabilità? Ora che ho confuso ogni sentiero trasportandomi nel vero della passionalità, a contemplare le magie di ieri, a ricordare quando tu non c'eri. Perché se non ti conosco è come se già ricordo di te. E sei estasi pura, pura. Quanti mari devo attraversare, a contemplare le magie di ieri, a ricordare quando tu non c'eri. Perché se non ti conosco è come se già ricordo di te. E sei estasi pura. Profumo di Eclettica. In your pocket, it was wild. Dagli scaffali di Eclettica, ormai dovreste averlo capito. C'è stato anche il jingle a presentarlo. Profumo di Eclettica è lo spazio che permette di andare indietro nel tempo, andare a ripescare nelle vecchie playlist di Eclettica per permettere a coloro che non c'erano di sapere quali erano stati i tormentoni negli anni passati. Beh, penso che per questo brano molti fra voi non ci fossero, perché Eclettica, come già ho detto più di una volta, è presente su queste frequenze di Rock FM dalla fine del 1994. Ed ecco, uno dei primi brani a essere molto presente in quelle playlist era Sparkle Dog Meets Cuisine, che vi siete appena ascoltati, dalla band che penso non esista più ormai da parecchio tempo, non l'ho più sentiti nominare, Space Surfers, band italiana che riuscì a incidere questo album Pretty Damn Cool sia per l'italiana Fridge Records ma soprattutto per la K Records di Olympia, stato di Washington, e riuscirono anche ad andare più volte per esempio in Giappone a portare la loro musica. Tutto questo Eclettica a metà anni 90. Proseguiamo con la musica, dopo avervi ricordato anche che prima di Profumo di Eclettica erano ritornati per l'ennesima volta i primo chef del cosmo, gli chef, come ho scoperto amichevolmente chiamarsi, visto il messaggio che hanno lasciato sulla pagina di MySpace di Eclettica. Primo chef del cosmo con il brano dal titolo Estasi Pura, il loro miglior brano fra quelli che ho potuto sentire, peccato che gli altri non siano allo stesso livello. Lasciamo i primo chef del cosmo per passare invece alla tedesca di Stoccarda, 29 anni, quindi un esordio non proprio in giovane età da parte di Miss Kenichi, Alpha South Records, Collision Time, il titolo dell'album, dal quale ci ascoltiamo Under My Skirt. Hey boy, you should try. night, I just stare outside, sitting upright in a chair by the window. Well, hey boy, you should try to fall in love with a girl like me. You should a wood made of plastic. Under my skirt, there's some sounds that swell. So che molti ascoltatori di Eclettica sono anche ascoltatori della musica di Damien Rice, quindi stavano ascoltando quello che è il suo nuovo album, che in questo mese di novembre è stato finalmente pubblicato e trova spazio anche in Eclettica. Nine Crimes è il brano con cui si chiude la parte di quest'oggi. Is that all right? Is that all right with you? No. Eclettica, fine della seconda parte.